24, i gialli della storia. Prima del 1914, in Gran Bretagna, come pure negli Stati Uniti, non c'era la leva obbligatoria. L'esercito era composto da volontari. Era un esercito molto piccolo. Lo stesso dicasi per l'esercito degli Stati Uniti. Quando scoppiò il conflitto, il ministro della guerra, Lord Kitchener, chiese altri volontari. In un primo tempo chiese 100.000 volontari, dicendo che avrebbero dovuto prestare servizio per 3 anni. La cosa sorprese tutti, perché non si pensava che la guerra sarebbe durata così tanto. Ma il ministro dichiarò che gli servivano 100.000 volontari per 3 anni. Quel numero fu raggiunto in pochi giorni. Poi il ministro lanciò un'altra richiesta di 100.000 uomini. Alla fine gli appelli per 100.000 volontari furono in tutto 5 e furono tutti esauditi. Più di 500.000 di giovani civili britannici si arruolarono come volontari nelle forze armate. Così, all'inizio del 1916, l'esercito britannico, che nel 1914 era piccolissimo, era diventato un esercito di massa, ma sempre composto da volontari. Una crescita straordinaria. Nessuno aveva previsto che la Gran Bretagna sarebbe diventata una nazione militare di tale peso. Il 21 febbraio 1916 ha inizio la battaglia di Verdun, la battaglia simbolo della Prima Guerra Mondiale. In campo 2 milioni di uomini, mentre i morti saranno quasi 1 milione. La Grande Guerra vede per la prima volta in campo tutte le maggiori potenze mondiali tra il 1914 e il 1918. Una guerra in cui si scontrano eserciti di massa e dove sarà determinante l'uso delle armi automatiche. Per creare questi imponenti eserciti si ricorrerà prima a campagne di arruolamento volontario e poi in molti stati si adotterà la leva obbligatoria. Di questa guerra che lascerà sul campo milioni di soldati, oggi a Mix24 raccontiamo giorni, uomini e numeri spesso dimenticati. In un conflitto che tutti ritenevano sarebbe durato solo pochi mesi, il compito della politica è fondamentale. Ed inevitabile lo scontro con il potere militare che governa i campi di battaglia con metodologie tradizionali e a volte inadeguate. In una guerra lunga e spaventosamente impegnativa, che finisce con l'assorbire e stravolgere la vita sociale e l'economia dei paesi coinvolti, è inevitabile che un ruolo crescente sia assunto dai militari, in particolare dagli stati maggiori e dai comandanti in capo degli eserciti, primi artefici e responsabili dello sforzo bellico. Il fenomeno è comune a tutti i paesi belligeranti, ma diversi sono gli equilibri che si vengono a stabilire fra vertici militari e vertici politici. In Gran Bretagna e in Francia sono i politici a mantenere il controllo della situazione. In Austria-Ungheria e soprattutto in Germania, dopo il 1916, con l'ascesa al comando supremo di Hindenburg e del suo aiutante Ludendorff, sono i generali a riservarsi le scelte più importanti. Ovunque i nomi e gli stessi volti dei comandanti diventano popolari o comunque noti al grande pubblico. In Gran Bretagna i politici nutrivano un certo disprezzo verso i comandanti militari. Così il governo pensò bene di chiamare alla carica di segretario di Stato per la guerra Lord Kitchener, il più grande generale vivente, in realtà per indebolirlo nell'esercizio di qualunque potere politico. Anche i due primi ministri, Asquith e Lloyd George, mostrarono la più totale indifferenza verso i generali, sia non prendendo in considerazione le proposte che avanzavano, sia impedendogli di esercitare qualunque potere politico. In Russia e in Germania, invece, avvenne il contrario. Lì, alla fine, furono i militari ad assumere il controllo della politica di guerra. Il conflitto tra potere politico e Stato maggiore si verificò anche in Italia, quando il nostro paese decise di intervenire contro i vecchi alleati austro-tedeschi e lo scontro fu forse più aspro che altrove. Cadorn disprezzava la politica e gli uomini politici, aveva un'idea, del resto come tutti gli altri grandi generali francesi, inglesi e tedeschi, aveva l'idea che in guerra comandava lui e basta, che il paese e il governo erano al servizio delle sue esigenze, e quindi si indignava ogni qualvolta non aveva tutto quello che chiedeva, che era tanto, per ragioni ovvie. Cadorna non capì mai che la politica aveva le sue esigenze, che il governo era il governo che dirigeva lo sforzo dell'Italia nella guerra mondiale, che la mobilitazione dei mezzi, degli uomini, non si poteva fare a bacchetta come voleva lui, come non capì mai che un paese in una guerra di quelle dimensioni e di quelle difficoltà e un esercito sottoposto a prove così dure aveva inevitabilmente momenti di debolezza, di crisi, di alti e bassi. Cadorna ragionava con il regolamento di disciplina alla mano: tutti dovevano essere perfetti, tutti dovevano solo obbedire, lui poi al governo non obbediva, faceva quello che voleva. Le prime operazioni militari vedono una fulminea avanzata dell'esercito tedesco verso il Belgio, il Lussemburgo e il nord della Francia, malgrado un sostanziale equilibrio delle forze in campo. Non credo che ci siano differenze grosse tra gli eserciti in campo, perlomeno tra inglesi, francesi, tedeschi e italiani e austriaci. I russi sono molto indietro da tutti i punti di vista, ma gli altri eserciti sono molto simili. Poi ci sono delle differenze molto simili come organizzazione, come cultura e come spirito. Cioè, tutti questi eserciti vengono massacrati in assalti frontali destinati a fallire nel 14, nel 15, nel 16. La differenza è il miglior livello degli ufficiali e dei sottufficiali. Allora la Germania aveva un corpo ufficiali e un corpo sottufficiali straordinariamente più curato, più capace, più bravo, il che le ha permesso di reggere tutta la guerra in complesso con forze molto inferiori rispetto ai suoi diversi nemici. E i tedeschi sono anche quelli che riescono meglio a introdurre nuove tecniche di combattimento, che non possono cambiare realmente la faccia della guerra, ma possono migliorare l'efficienza delle truppe. Intanto l'esercito russo attacca la Germania sul fronte est. È il momento di adottare il piano Schlieffen, già studiato dai tedeschi nel 1905 nel caso in cui avessero dovuto combattere su due fronti. Il piano prevede la rapida conquista di Parigi, la immediata capitolazione francese, per poi far convergere le forze sul fronte orientale. Le truppe tedesche ottengono a Tannenberg, nome tedesco della località polacca di Stebark, una delle vittorie più clamorose della loro storia militare. È qui che, al comando di Paul von Hindenburg, i tedeschi riescono a bloccare l'avanzata dei russi, che si era rivelata più rapida ed efficace del previsto. I russi lasceranno sul campo 50.000 morti e 92.000 prigionieri. Tannenberg diventa da allora un luogo sacro della memoria tedesca e Hindenburg assurge a quel ruolo di padre della patria che lo condurrà a rivestire la più alta carica politica nella Repubblica di Weimar. Il piano Schlieffen fallisce perché vengono meno alcune condizioni che erano alla base del suo possibile successo. Il Belgio, con il suo piccolo esercito, pone un'imprevista resistenza e per espugnare le fortezze di Namur e Liegi è necessario rallentare l'avanzata e fare ricorso all'artiglieria pesante. Due corpi d'armata vengono dirottati ad est per fronteggiare l'avanzata dei russi. Infine, il capo di stato maggiore von Moltke si rivela indeciso e invia ordini contraddittori ai suoi generali. Uno di questi, von Kluck, arrivato a 40 km da Parigi, è obbligato ad arrestare l'avanzata sulla città. Già colpita dai bombardamenti della Grosse Berta e da alcune incursioni di dirigibili, Parigi era preparata a subire l'assedio. Il generale Gallieni, che aveva organizzato la difesa della città, informato delle difficoltà e delle indecisioni del nemico, anticipa gli ordini del capo di stato maggiore francese, il generale Joffre, e ordina di attaccare l'armata di von Kluck. I soldati francesi vanno in battaglia con ogni mezzo. Persino i taxi vengono requisiti per arrivare più in fretta sulla linea del fronte. Parigi è salva. È l'inizio della battaglia della Marna. La battaglia della Marna salva Parigi e la Francia, ma le sorti della guerra sono sempre più imprevedibili. Dopo quella battaglia si passa alla guerra di trincea, con spostamenti minimi e sofferenze umane indicibili. Dalla guerra di strategia si passa alla guerra di logoramento. La guerra di trincea è stata una reazione naturale all'aumento incredibile di potenza di fuoco. L'unica cosa che i soldati potevano fare era scavare delle buche e ripararsi al loro interno. La trincea divenne un elemento universale. In qualunque campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale troviamo le trincee. Si trovano resti di trincee a Gallipoli, dove britannici e australiani combatterono contro i turchi. Se ne trovano in Francia, in Belgio, in Italia settentrionale, in Polonia centrale. Ovunque si è combattuto, ci sono resti di trincee. In questa situazione di immobilismo, dove si conquistano solo pochi metri alla volta per poi restituirli il giorno dopo, appare un'arma terribile e inattesa: il gas. Ieper è il nome fiammingo di Ypres, che è ormai nota con questo nome a causa dell'uso dell'iprite, il gas che fu usato per la prima volta in questa località del fronte delle Fiandre. Il 22 aprile 1915 i tedeschi attaccarono le truppe francesi con un bombardamento di gas che provocò 15.000 gassati. Di questi 5.000 morirono. Gli attacchi con i gas che si susseguirono, sempre sul saliente di Ypres, provocarono altri 5.000 morti fra le truppe canadesi. Il successo iniziale dei gas innescò una competizione fra i belligeranti alla ricerca di formule sempre più potenti. E ancora una volta i tedeschi, sempre a Ypres, l'11 e il 12 luglio 1917, sperimentarono un gas contro il quale le protezioni fino ad allora studiate non avevano efficacia. Lo stesso gas verrà usato anche a Caporetto contro l'esercito italiano. Solo quando ci si rese conto che il gas era un'arma a doppio taglio, il vento poteva rivolgerlo contro chi ne faceva uso, e quando si perfezionarono le tecniche di difesa, in primo luogo le maschere antigas, quest'arma silenziosa e micidiale fu ritirata dai fronti. La guerra di trincea non porta da nessuna parte, e allora è necessario aprire nuovi fronti. Il Regno Unito intravede nei Dardanelli lo scenario migliore per aggirare lo stallo che si è creato nell'Europa occidentale. Le truppe del Kaiser tentano un'accelerazione e attaccano i francesi sul fronte meridionale. La lunga e sanguinosa battaglia di Verdun, 7 mesi di inaudite sofferenze, diventerà per la Francia una leggenda di eroismo. Penso che l'errore compiuto alla Somme e a Passchendaele, come pure nelle offensive del 1915, dipenda dal carattere stesso della guerra di trincea, dove, con la forza degli eserciti praticamente equivalente, nessuno dei due poteva sperare di sfondare le linee avversarie. Al contrario, il comandante britannico, il feldmaresciallo Haig, un generale di cavalleria, uno che si era addestrato solo in groppa a un cavallo, pensava che bastasse aprire una piccola breccia nella linea nemica perché la cavalleria vi penetrasse e avanzasse trionfalmente fino a Berlino. Invece non andò così. Nel 15, dopo il primo di questi attacchi sciocchi e insensati contro una posizione impenetrabile, i generali tenevano delle lezioni su quelle manovre. E ovviamente l'interpretazione era sempre del tipo: avremmo vinto se solo avessimo avuto più uomini, ancora un'altra giornata, più potenza di fuoco. Churchill assistette ad una di queste lezioni. All'epoca era colonnello e comandava un battaglione di trincea. Dopo la sua dissertazione, il generale chiese: «Allora, che lezione possiamo trarre da questa battaglia?», aspettandosi che gli ufficiali dicessero: «La prossima volta la faremo meglio». Churchill invece disse: «Non facciamolo più». All'origine dei Dardanelli c'era il tentativo di aprire qualche altro teatro di guerra alternativo alla situazione di stallo delle trincee dell'Europa occidentale. Churchill, come tanti componenti del Consiglio di guerra, riteneva che fosse possibile sfondare le linee ai Dardanelli, attraversare il Mar Nero e quindi attaccare attraverso la Bulgaria e la Romania, distruggendo le centrali di potere austro-ungariche lungo il Danubio. Però Churchill aveva sempre sostenuto che sarebbero serviti altri uomini. Lord Kitchener, invece, il ministro della guerra, nutriva un profondo disprezzo per i turchi. Negli anni Ottanta del secolo prima era stato console militare britannico in Turchia e ai suoi occhi i turchi non valevano granché come soldati, quindi decise di non impegnare in quella zona le migliori divisioni britanniche. «Se c'è da combattere, lasciamolo fare agli australiani», disse. E il giudizio che aveva sul valore militare degli australiani non si discostava molto da quello espresso per i turchi. La battaglia fu un disastro perché né Lord Kitchener, né i vertici militari, né il Foreign Office la presero molto sul serio. Anche Edward Grey, il ministro degli esteri, che affermava di conoscere la Turchia, tutti sostenevano di conoscere il cosiddetto turco, disse: «Appena i turchi sentiranno le cannonate delle navi britanniche, basterà il solo rumore, spariranno dall'Europa e fuggiranno in Asia. Mai sottovalutare il nemico». Lo Stato Maggiore tedesco decise nell'inverno del 1915 di attaccare sul fronte meridionale. Il luogo scelto fu il settore fortificato intorno alla cittadina di Verdun. Lo scopo principale dell'offensiva era quello di attirare le forze francesi nella difesa di un punto nevralgico del loro schieramento offensivo e di logorarle quanto più possibile. La preparazione dell'attacco fu lunga e accurata e il 25 febbraio del 16 ha inizio la battaglia più lunga e sanguinosa del conflitto. I primi tre giorni l'offensiva tedesca sembrò essere coronata da successo, soprattutto dopo la conquista del formidabile forte di Douaumont. I francesi, comandati dal generale Pétain, malgrado l'iniziale insuccesso, resistono e contrattaccano. La battaglia, divenuta l'ennesimo scontro di logoramento, continuerà per sette mesi per concludersi senza vincitori né vinti, come quasi tutte le battaglie del fronte occidentale. Vi moriranno 162.000 francesi e 140.000 tedeschi. La prima guerra mondiale è quindi tutta vissuta nel fango, tra disagi e fatiche, con migliaia di morti per ogni battaglia e senza che si riesca a intravedere la possibilità di una via d'uscita. Ma intanto, come si combatte sul fronte italiano? Il fronte italiano, rispetto agli altri fronti, ha una differenza, che i quattro quinti del fronte sono in montagna, montagna media e alta, dove la guerra è diversa, completamente o notevolmente diversa, che in pianura. Dove il fronte è invece pianura o colline basse, sull'Isonzo, la guerra è esattamente uguale a quella che si svolge in Francia o in Russia. Dipende soltanto dall'addensamento di mezzi. La battaglia può essere più o meno intensa, ma i meccanismi della battaglia sono assolutamente gli stessi. Cadorna lanciò una serie di 11 offensive per 2 anni e mezzo, un po' sull'Isonzo, perché era l'unico fronte dove potesse attaccare in forze. Una grande offensiva in montagna era praticamente impossibile, non solo perché un'offensiva in montagna è molto più difficile da montare, richiede artiglieria specializzatissima, un'estrema precisione, ma soprattutto perché al di là delle montagne del fronte austriaco ci sono solo altre montagne. Se fossimo arrivati a Trento, poi dovevamo arrivare a Molzano e poi arrivare e passare le Alpi, passare il Brennero e arrivare dove? In Tirolo, che è ancora una serie di montagne. Il fronte degli Isonzo era un fronte piano, di basse colline, il tradizionale via di tutte le invasioni in Italia dall'est, e offriva delle prospettive. Se fossimo riusciti a arrivare a sfondare, c'era Trieste, che era comunque un bel obiettivo, e poi dopo c'era Lubiana, e poi dopo c'era Vienna, cioè dopo, al di là dell'Isonzo, c'erano terreni pianeggianti, e quindi era assolutamente logico, comprensibile che Cadorna concentrasse qui tutte le sue offensive. C'è una specie di mito: i generali sono stupidi e quindi la guerra si fa in questo modo perché i generali non capiscono niente. Non è vero. I generali non sono stupidi, non più degli altri. E che non c'è un altro modo di fare la guerra. Lei si mette nei panni di Cadorna, che io non amo tantissimo, non voglio difenderlo più di tanto, però Cadorna deve attaccare. La nostra è una guerra offensiva, siamo entrati in guerra noi, siamo noi che abbiamo dichiarato la guerra all'Austria, non siamo stati attaccati. Quindi dobbiamo attaccare. E non c'è un altro modo di attaccare. Quindi cosa fa Cadorna? Esattamente come ragiona Joffre, come ragionano i generali inglesi e tedeschi. Dice: l'unico modo di sfondare è di avere più uomini, più cannoni, più munizioni d'artiglieria. E quindi lo capisce non proprio il primo giorno, ma rapidamente nei primi mesi. E quindi chiede al governo più uomini, più cannoni, più munizioni. La battaglia aumenta di intensità, di dimensioni, ma anche gli austriaci chiedono più uomini, più cannoni. Per cui si alza, come dire, il livello dello scontro, le dimensioni dello scontro, ma la sostanza non cambia, non può cambiare. Nel 1917 anche gli Stati Uniti entrano in guerra e questa scelta diventa determinante per la fine delle ostilità. La Germania, logorata dalle spaventose perdite, decide di accettare l'armistizio imposto dagli alleati e depone le armi. È l'11 novembre del 1918. I maggiori imperi esistenti al mondo, quello tedesco, quello austro-ungarico e quello ottomano, si estinguono ridisegnando la geografia politica dell'Europa. Durante il conflitto, durato poco più di 4 anni, perdono la vita più di 9 milioni e mezzo di uomini, mentre i feriti sono oltre 21 milioni. Così la Grande Guerra diventa una delle più sanguinose della storia dell'umanità. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.